e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Cuore Denari ancora per qualche giornata in conduzione da sola. Nicoletta Carbone torna tra pochissimo. I temi di cui parleremo questa mattina, come sempre, suddividendo in due parti il nostro programma. La prima parte questa mattina sarà una parte davvero di cuore. Gravidanza, parto, decessi, sono tre parole che in questi giorni purtroppo abbiamo sentito spesso, forse un po' troppo per i nostri gusti. È presto per dire se le donne protagoniste della cronaca di questi giorni, decedute durante la gravidanza a Foggia, a Torino, Vicenza, Bassano del Grappa, l'ultimo caso di Brescia, e poi c'è anche un nuovo caso proprio di cui la cronaca racconta questa mattina di Sanremo, di una mamma giovanissima di 22 anni che ha perso proprio, era in procinto di nascere il suo bambino Aaron, in queste ore il piccolo sarebbe dovuto nascere il 7 gennaio, è presto per dire naturalmente se tutte queste tragedie potevano essere evitate, se queste cinque donne potevano essere salvate. Bisognerà attendere i risultati delle autopsie. Per l'ultimo caso di Brescia i giornali raccontano questa mattina di una infezione da streptococco. Bisogna attendere anche le verifiche degli ispettori mandati dal ministro della salute Beatrice Lorenzin. Una cosa è certa, sono fatti di cronaca che hanno riportato alla ribalta della cronaca appunto il tema della mortalità materna. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità sono però assolutamente incoraggianti e dobbiamo soffermarci con forza su questi. L'Italia è uno dei migliori paesi al mondo per partorire, con una media di 10 donne morte su 100.000 nati, in linea con nazioni come il Regno Unito e la Francia. È un dato assolutamente positivo che però naturalmente non ci deve impedire di riflettere su quanto accaduto e commentarlo. Perché si rischia di morire ancora di parto? Si potrà mai azzerare completamente il rischio? Ne parleremo in questa prima parte di Cuore Denari fino alle 11 con una nostra esperta. Nella seconda parte del programma invece, per il tema di denari, parleremo di denari veri e propri e parleremo di contanti. Come sapete, con la legge di stabilità è stato nuovamente alzato il limite del contante a 3.000 euro, quel limite appunto con cui si possono fare transazioni finanziarie e pagamenti. Cosa cambia per tutte le operazioni finanziarie che caratterizzano la nostra quotidianità? Per i trasferimenti di denaro a vario titolo, tutto quello che c'è da sapere questa mattina lo affronteremo con il nostro esperto e faremo, speriamo per voi, un dettagliato punto della situazione. Per entrambi gli argomenti avete sempre a disposizione il numero verde, è l'800 24 00 24. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Leggiamo i vostri sms, ma leggiamo anche su WhatsApp, per cui siamo pronti a partire. Guardi, a me mi ha veramente colpito questo dato e credo di non essere l'unica. Sono stata colpita anche come donna e come ministro, perché è un fatto veramente drammatico, soprattutto il susseguirsi di questi casi, che però ricordiamoci sono avvenuti in ospedali diversi, ogni donna aveva una condizione diversa, quindi purtroppo credo che si tratti veramente di una drammatica casualità alla quale però dobbiamo dare una risposta, e quindi bisogna indagare caso per caso, verificare che non ci siano state degli errori nelle procedure di intervento e durante, diciamo, l'accesso in ospedale, durante la presa in carico del paziente, e verificare anche quello che è avvenuto prima. Questo perché, pur avendo noi una bassa casistica di morti, di donne morte durante il parto, noi dobbiamo abbassarla il più possibile. L'unico modo per farlo è studiare tutti i casi dove si sono verificate queste tragedie per poterle prevenire laddove è possibile. E poi purtroppo c'è anche, ahimè, sembra assurdo pensarlo, ma purtroppo si può ancora morire di parto. Era il commento a caldo e anche molto sentito, come avete avuto modo di ascoltare, da parte del ministro della salute Beatrice Lorenzin, colpita da questi fatti evidentemente in primo luogo intanto per il suo ruolo istituzionale, ma anche come donna e come mamma da poco di due bambini. Ha parlato di una casualità a cui però dobbiamo dare una risposta. L'obiettivo è abbassare assolutamente la casistica. Il parto, un evento che consideriamo naturale ma che purtroppo, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, non è esente da complicazioni. Cinque giovani donne italiane decedute per complicanze della gravidanza o del parto. Così un problema apparentemente lontano dal nostro paese bussa alla nostra porta. Noi stamattina ne parliamo con la professoressa Irene Cetin, professoressa all'Università di Milano, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale Sacco di Milano, responsabile scientifico del progetto ISS sulla sorveglianza della mortalità materna in Regione Lombardia e membro del panel per la preparazione delle linee guida su emorragia postpartum coordinata appunto dall'Istituto Superiore di Sanità. Professoressa Cetin, buongiorno, buon anno naturalmente, grazie per la sua disponibilità di oggi a commentare un tema così delicato. Benvenuta. Buongiorno, grazie di questo invito. Ma sicuramente, come avete già detto e come ha detto anche il ministro Lorenzin, il problema della mortalità materna, che va insieme comunque in generale al problema dei rischi in gravidanza sia per la mamma che per il feto, è un problema che esiste ancora, anche se bisogna sicuramente dire che l'Italia, come tutti i paesi socialmente avanzati dell'Europa, hanno avuto un calo continuo nel corso degli ultimi 50-100 anni, perché dobbiamo pensare che, se pensiamo a paesi come l'Africa, la mortalità materna è 100 volte più alta. In Italia la mortalità materna, come è già stato detto, è veramente molto bassa, parliamo di 10-11 casi ogni 100.000 parti, però chiaramente non sono zero e questi casi bisogna cercare sicuramente di prevenirli il più possibile, ma ripeto, è molto probabile che non si arriverà mai a un rischio zero di questo tipo. È anche vero, no? Stavo pensando evidentemente anche all'enfasi dal punto di vista informativo che si dà a questi casi, proprio perché c'è anche più informazione su tutto. Mi veniva in mente, poi non so se sia calzante o meno, professoressa Cetini, il parallelo fa per esempio, stavo ripensando al commento che facciamo spesso sull'aumento dei malati di cancro di vario tipo, no? La diagnostica oggi è molto più accurata, molto più elevata, di conseguenza si conoscono più casi perché banalmente si diagnosticano molto più precocemente, molto più facilmente, no? Adesso non so se è un parallelo che secondo lei può calzare o meno, ma certamente anche il fatto di avere molta più informazione su questi argomenti lasciano il campo anche ad una enfatizzazione delle questioni molto più forte, no? Assolutamente, nel senso che i casi di morte materna sono senza voler assolutamente sminuire questi 5 casi che sono drammatici per queste famiglie, per carità, non ci passa neanche lontanamente per l'anticamera della testa. Sì, probabilmente tra l'altro a volte ci sono anche la casualità che si verifichino più eventi vicini e poi magari non se ne verifichino più per molti mesi. Questo succede, lo sappiamo bene, che è una cosa casuale che può succedere, però tutto sommato dobbiamo anche pensare che in questo momento, lei ha detto prima le mie qualifiche, la ringrazio, ma dicendo quelle qualifiche ha anche detto che in realtà in questo momento in Italia c'è, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità soprattutto e delle regioni anche e del Ministero ovviamente, moltissima attenzione a questo aspetto, perché appunto si stanno analizzando, ogni singolo caso viene analizzato non solo nell'immediatezza dell'evento ma anche poi con più calma dopo. Ci sono proprio dei comitati regionali che sono costituiti da medici di varie specializzazioni che non sono stati coinvolti nell'evento, che rivalutano tutto quello che è successo per cercare di trovare quegli aspetti che potevano in qualche modo essere eventualmente in qualche modo previsti o prevenuti. Certo. Ma questo, ripeto, in generale è presente pochissime volte. Quello che sicuramente è un fattore di rischio che dobbiamo cercare di prevenire è quello che la donna arrivi al parto senza aver fatto tutto quello che si poteva fare prima, cioè che vuol dire addirittura già dalla fase preconcezionale, per cui per esempio, non dico che sia il caso di queste donne in cui è successo questo evento, però sappiamo benissimo che il peso in eccesso, l'obesità aumenta tantissimo, in paesi come gli Stati Uniti, dove l'obesità in questo momento è veramente un problema molto grave, hanno visto che le donne con un indice di massa corporea superiore a quello che si ritiene normale hanno un rischio che duplica o addirittura triplica su pesi ancora più elevati. Loro hanno body mass index con dei valori veramente per noi non ancora visti, no? Però nelle situazioni dove una donna pesa comunque più di quello che dovrebbe e soprattutto poi magari aumenta ancora ulteriormente di peso in gravidanza, tutto questo aumenta tantissimo il rischio di quelle che sono le principali complicazioni che possono portare. Se non mi ricordo male, forse una delle mamme malcapitate protagoniste di questa tragedia aveva proprio preso molto peso, sì, forse era la mamma di Torino. Detto questo, poi non sappiamo se fosse stata questa, lo stabiliranno appunto tutte le indagini in corso. Professoressa Cettin, allora, l'Italia ha messo a punto un sistema di sorveglianza attiva sulla mortalità materna. Questo sistema è coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e finanziato dal Ministero della Salute, che in una fase pilota ha coinvolto 6 regioni: Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Coprono queste regioni il 49% dei nati nel nostro paese. Dal 2015 è incluso anche la Lombardia e la Puglia, estendendo quindi la copertura al 73% dei nati. Che tipo di lavoro sta facendo questo sistema di sorveglianza e perché deve tranquillizzare anche il lavoro di questa istituzione tutte le mamme in attesa in questo momento? Sì. Allora, quello che si fa sostanzialmente è appunto di avere un'immediata attenzione a tutti i casi che succedono, per cui l'ospedale dove un caso è successo deve fare un lavoro interno di quello che si chiama l'audit, o insomma comunque la root cause analysis, insomma una valutazione con dei metodi specifici che servono per valutare tutti i fattori che sono successi, in che ordine sono successi, dove ci poteva essere stato qualcosa che si sarebbe potuto fare in modo diverso, che non è detto che ci sia ovviamente. Tutto questo viene fatto a livello locale, viene poi fatto a livello regionale, il caso viene reso anonimo, valutato a livello regionale da un comitato di esperti e poi rifatto ancora a livello dell'ISS. E tutto questo porta poi ad avere la casistica di quell'anno, che ripeto comunque è molto limitata perché sono pochi casi che vengono discussi annualmente, e si individuano eventuali fattori su cui lavorare. Allora, per esempio, in questo momento tutto questo lavoro ha portato ad individuare che l'emorragia del parto legata alla perdita di sangue, noi dobbiamo pensare che una donna in gravidanza cambia completamente la quantità di sangue che circola, che passa dall'essere di 3-4 litri a diventare di 5-6 litri. Quindi al momento in cui partorisce la donna, dopo che è nato il bambino, la placenta si deve staccare. Se questo non avviene nel modo normale, invece di perdere la quantità normale di sangue che si perde, che è di circa mezzo litro, cosa può succedere? Che se ne comincia a perdere molto di più, ma a una velocità molto rapida, per cui questa è una delle cause più frequenti che conosciamo di morte delle donne al momento del parto, o anche di grave morbilità, perché molte donne comunque chiaramente non vanno incontro a morte, ma hanno una perdita importante, quindi devono essere eventualmente trasfuse o così. Su questo si sta lavorando facendo delle linee guida per arrivare ad avere dei protocolli che consentano di avere un modo di operare immediatamente e molto rapidamente con degli schemi che sono basati su tutte le evidenze, e questo è appunto il lavoro che l'ISS sta conducendo con un gruppo di esperti, basandosi però su tutto quello che è stato studiato, pubblicato, creando quindi delle linee guida basate sulle prove di evidenza. E tutto questo poi verrà riportato nei vari centri, cioè sostanzialmente le regioni poi lavoreranno su queste linee guida promuovendo la formazione, cosa che si fa comunque in modo regolare, cioè quello che, scusi, porto via ancora un minuto per dire una cosa fondamentale. Ma ci mancherebbe, ne abbiamo ancora molti a nostra disposizione. Sì, nel senso che quando succedono questi casi gli operatori coinvolti sono ovviamente, non so come dire, cioè sono veramente coinvolti, cioè il caso coinvolge tutta la struttura in un modo che non è non c'è indifferenza in questi casi, cioè nelle sale parto, nei punti nascita lavorano ostetriche, ginecologi, anestesisti, pediatri, e sono tutte persone che davvero dedicano molto tempo alla loro formazione, e il lavoro di gruppo che deve contare, quindi su questo si deve lavorare con protocolli che consentano di ottimizzare il lavoro di gruppo. Professoressa Cettin, nel frattempo monitoravo un po' anche quello che stiamo sentendo un rumore, non so se è il caso di ripristinare la telefonata, forse se la professoressa Cettin è collegata attraverso un cordless, capita spesso che questi con la batteria ci diano qualche grattacapo. Adesso intanto Laura Vanossi recupera di nuovo la telefonata con Irene Cettin. Stavo monitorando un po' anche sui siti dei principali quotidiani di questa mattina. Si sta riparlando di nuovo del caso della mamma di Brescia, l'ultima, che è morta per, appunto, per parto. Si parlava di un'infezione da streptococco, di una setticemia appunto diffusa. Adesso vorrei chiedere alla professoressa Cetin se la recuperiamo, se questo è un problema molto, molto diffuso. Professoressa Cetin, ci risiamo? Ci sente? Ci sono, sì. Adesso la sento molto meglio. No, stavo riguardando sui siti dei principali quotidiani di questa mattina, si parla di un'infezione da streptococco appunto per quello che riguarda l'ultima mamma morta, quella di Brescia. La positività allo streptococco è molto diffusa fra le donne in gravidanza che stanno partorendo? La positività allo streptococco la riscontriamo nel 10-15% dei casi di parti, perché è uno di quei parametri che viene valutato prima del parto, ma non in realtà. Il motivo per cui lo si fa è di prevenire un rischio di infezione neonatale. Mm-hmm. Quindi normalmente non abbiamo particolari protocolli, se non quello di trattare la donna con antibiotico nel corso del travaglio di parto, ma ripeto, per prevenire il rischio del bambino. In questo caso la positività allo streptococco poteva aver avuto un ruolo, ma andrà studiato meglio, perché non è, diciamo, uno di quei fattori di rischio particolarmente, certo, importante normalmente. Cioè, non so se è stata effettivamente, voglio dire, la causa poi della, chiaro, morte. Le ho fatto commentare proprio la notizia di cronaca che vedo lampeggiare in questi ultimi minuti sui siti dei principali quotidiani. Intanto molti ascoltatori, professoressa Cettin, io questo tema non volevo neanche sollevarlo, vedo che invece a gran voce lo stanno sollevando gli ascoltatori, e le chiedo un commento, anche se ritiene di farlo, su questo punto, cioè la riduzione del personale che c'è negli ospedali in periodi di festa come questo, che probabilmente possono aver portato anche ad una, io ritengo però minima, lo diceva lei poco fa, riduzione dell'assistenza a queste persone. È chiaro che in determinati momenti dell'anno tutti devono andare in vacanza o devono fermarsi per un attimo, ci sono negli ospedali le riduzioni di personale come nelle redazioni giornalistiche, in qualsiasi altro ufficio al mondo. Questo non significa che non vengano garantiti appunto gli standard assolutamente di sicurezza, no, di assistenza. Professoressa Cettin, su questo che cosa rispondiamo a tutti gli ascoltatori che stanno sollevando anche questo problema? Non credo che corrisponda a una riduzione del personale inevitabile ad un abbassamento della soglia di attenzione. Ecco. Certo, il problema della riduzione del personale ovviamente ci colpisce, perché dobbiamo magari lavorare in modo diverso, però colpisce di più l'attività ambulatoriale, l'attività in cui si devono programmare più ambulatori contemporaneamente, di ecografia, di visite, eccetera. L'attività della sala parto, cioè l'attività del punto nascita, inteso come sala parto, nido, anestesisti e tutto il personale quindi coinvolto nell'evento del parto, prevede un numero di persone che vengono sempre mantenute anche nei periodi di festa. Cioè nei periodi di festa si interrompono delle attività in elezione, cioè, cosa voglio dire, appunto, gli ambulatori piuttosto che gli interventi ginecologici che non sono urgenti, ma su quello che è l'emergenza o il parto, ovviamente, che comunque avviene in qualunque momento e non può essere previsto, c'è sempre il personale presente. Detto ciò, ovviamente possiamo entrare invece nel discorso non tanto della riduzione del personale, ma del fatto che sicuramente è importante andare a partorire in strutture che si conoscono, strutture che hanno tutte le garanzie, che però sono quelle del sistema pubblico italiano, cioè tutti i punti nascita prevedono un certo numero di persone presenti perché il punto nascita sia accreditato. E su questo, insomma, abbiamo tutto il tempo necessario per fare la scelta idonea e più opportuna. Non è che ci dobbiamo ridurre ovviamente a un'ora prima di partorire, prima, mi pare evidente questo, ma non spenderei ulteriori parole su questo aspetto. Professoressa Cetin, andiamo in pausa, adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi torniamo con lei ad una analisi di tutte quelle che sono le possibili situazioni che possono rendere un po' più difficoltosa la gravidanza, fino a addirittura a comprometterla, in modo tale da dare anche qualche informazione a quelle mamme che magari non ci pensano, ma non perché sono superficiali, ma perché sono partite con la loro gravidanza, stanno bene, chiaramente poi al peggio è evidente che non ci si pensi mai, e noi speriamo che questo sia possibile per tutte, però insomma un pochino di analisi e di prevenzione anche dal punto di vista dell'informazione ci sembra utile. La facciamo fra qualche istante. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi stiamo parlando di parto, un evento naturale che in questi giorni per 5 donne in Italia è stato invece segnato da una tragedia. Morire di parto è un concetto che abbiamo sempre associato ai paesi in via di sviluppo, ma che invece purtroppo può capitare anche nel nostro paese. Tanto si è fatto, c'è ancora tanto da lavorare per riuscire, come ha detto, anche lo avete sentito prima in questo brano che abbiamo riproposto del ministro Lorenzin, per portare la mortalità per parto verso lo zero. Questa mattina con noi c'è la professoressa Irene Cettin. Ci siamo lasciate appunto con alcune riflessioni sul tema. Quali sono le situazioni che possono comunque compromettere, professoressa Cettin, la gravidanza? E naturalmente non vogliamo spaventare nessuna donna che è in felice attesa in questo periodo, ma magari proprio per il fatto che sta molto bene, magari a certe cose giustamente non pensa. Però senza far suonare nessun tipo di campanello d'allarme, vorremmo solo, con grande realismo e grande professionalità, perché questa è quella che arriva da parte sua, professoressa Cettin, dare un po' un elenco di quelle situazioni che dobbiamo essere attente a monitorare e a tenere sotto controllo. Sì, allora diciamo che, come accennavo prima, ci sono dei momenti in cui che sono importanti. Allora, sicuramente, se vogliamo fare proprio le cose per bene, dobbiamo partire già dal momento in cui stiamo pensando al concepimento. Quindi partire, prima di tutto bisognerebbe cercare di convincere un po' le donne italiane a non aspettare i 40 anni per avere la gravidanza, ma sicuramente l'età è un fattore di rischio, certo, importante, quindi più avanza l'età più aumentano i rischi. E questo sta avanzando sempre di più anche quella, anche sì. Quello è un tema interessante, magari dedicheremo a questo argomento, professoressa Cettin, una bella puntata isolata proprio a questo argomento, a tutte quelle donne che o per scelta personale o per scelta di vita inevitabile, perché le cose poi vanno così, appunto rimangono incinte un po' più avanti nell'età, dopo, certo, i 40 anni, chiusa parentesi. Certo. Poi tra l'altro, se rimangono incinte dopo i 40 anni, è anche più possibile e più facile che la gravidanza sia eventualmente gemellare, e in questo caso i rischi ulteriormente aumentano, e anche questo va detto. L'altra cosa che invece è molto più modificabile, diciamo un po' più tra virgolette semplice, ma in realtà non lo è così facilmente, ma è importantissima, è sicuramente in generale lo stile di vita, ma in particolare il peso. L'ho già detto prima, sì, lo ridico ancora: partire con un peso il più possibile ottimale, non fumare, perché il fumo aumenta tantissimo i rischi sia per il bambino ma anche per la mamma, e avere un tipo di alimentazione che preveda molti micronutrienti, cioè vitamine, minerali, vuol dire tanta frutta e verdura, vuol dire pochi grassi saturi, ma va bene invece il pesce, per esempio. Queste cose sembrano, come dire, essere un po' a latere, ma non è vero, perché in realtà sia nella fase preconcezionale che subito all'inizio della gravidanza si forma la placenta, e la placenta è quell'organo che determina prima di tutto il buon andamento in generale dello sviluppo del feto, e quindi poi del peso del bambino e del fatto che il bambino nasca bene, ma in secondo luogo determina anche tutta una serie di rischi per la mamma, perché se la placenta non si sviluppa adeguatamente, la mamma può andare incontro più facilmente a quelle complicazioni che vengono chiamate preeclampsia, una volta veniva chiamata gestosi, e che è una delle cause principali, sì, anche di morte materna o di gravi complicazioni della gravidanza anche per il bambino, dimentichiamocelo. Quindi questo, sappiamo che questi rischi aumentano molto sia con un peso eccessivo che con un'alimentazione non ottimale. È stato proprio dimostrato da tanti studi, soprattutto adesso del nord Europa, che un'alimentazione migliore e un aumento di peso in gravidanza ottimale riducono significativamente questi rischi. Poi naturalmente invece abbiamo condizioni di rischio precedenti alla gravidanza che non possiamo chiaramente modificare, come alcune malattie materne, come il diabete o anche l'ipertensione preesistente alla gravidanza. Queste donne, le donne che hanno già delle malattie preesistenti alla gravidanza conosciute, devono assolutamente pianificare la gravidanza nel modo migliore. Se facciamo appunto l'esempio del diabete, che è quello più semplice, il normale andamento della glicemia, che è il modo più semplice di monitorare il diabete, deve essere ottimale, cioè il compenso glicemico prima dell'inizio e del concepimento deve essere ottimale, perché così si riducono i rischi. Sicuramente alcune delle donne che muoiono in gravidanza in Italia hanno patologie preesistenti. Adesso non dico in particolare questi casi che sono successi, ma sugli altri che abbiamo analizzato negli ultimi anni, sicuramente alcune avevano patologie che non erano state seguite adeguatamente. Certo. Sappiamo benissimo che un fattore di rischio, parlando sempre in generale, è il livello socio-economico. Ma perché? Perché le donne con un livello socio-economico inferiore o con, per esempio, straniere che magari non capiscono bene la lingua, vengono seguite in modo non ottimale. E questo aumenta i rischi significativamente, cioè noi dobbiamo pensare che non è che la morte è avvenuta per qualcosa che è successo semplicemente in quel momento preciso, è qualcosa che si costruisce nei mesi precedenti, quindi deve essere intercettato prima. Chiarissimo. Questo mi sembra che l'abbia detto anche la Lorenzin ed è assolutamente vero, cioè nel momento in cui la donna arriva in ospedale e sta già male, tutto il processo si è già innestato, quindi noi non siamo onnipotenti, a volte non riusciamo a interromperlo, soprattutto per esempio nei casi di sepsi. Una sepsi avanzata è difficilissima da interrompere, su questo si sta lavorando molto. Una sepsi, che cos'è, professoressa Cetin? Un'infezione? È un'infezione che ha coinvolto tutto l'organismo materno, che in gravidanza di solito parte, quando appunto è così grave, può partire. Si chiama corionamniosite inizialmente, cioè parte dal corion e dall'amnion, che sono le membrane amniotiche, quindi sostanzialmente sono parte anche loro di quegli annessi, di quegli organi che sono legati comunque alla formazione della placenta. Se c'è un'infezione nel corso della gravidanza di queste strutture, delle membrane, questa infezione può molto facilmente diffondersi a tutto il corpo e dare anche questi episodi molto acuti, perché ci possono essere ci può essere un'embolia polmonare di liquido amniotico, per esempio, e questi sono quel tipo di situazioni dove sappiamo che la mortalità è quasi inevitabile. Certo. C'è un'ascoltatrice, professoressa Cetin, che ci racconta che 5 anni fa, con il suo primo parto naturale, le è accaduto che le era rimasta dentro un po' di placenta e dopo 3 giorni a casa ha avuto naturalmente un'emorragia, è corsa all'ospedale, che distava peraltro 30 chilometri da casa sua, è finito tutto bene, ma anche questa è una situazione che si può verificare. Sì, è una delle possibili complicazioni del parto, e il momento, appunto, come dicevamo prima, il momento in cui la placenta si stacca è un momento fondamentale, e lì, chiaro, bisogna stare molto attenti, bisogna controllare, verificare bene. A volte la placenta non esce completamente, può succedere, purtroppo fa parte delle complicazioni che non sono sempre anche queste prevedibili. C'è adesso ovviamente la possibilità di fare controlli ecografici che ci aiutano moltissimo, però purtroppo succede ancora sicuramente. Certo. Lei prima parlava dell'importanza di scegliere naturalmente l'ospedale che fa il caso nostro. A che cosa bisogna guardare quando si sceglie? Quanto tempo prima bisogna farlo? È evidente che magari anche il ginecologo che ci segue ci darà un'indicazione in questo senso, ma per esempio nella scelta della struttura nella quale partoriremo, il numero dei parti può essere un indicatore importante, professoressa Cetin? Il numero dei parti che si fanno ogni anno certo, riflette sicuramente la percentuale anche di patologia, perché ovviamente se noi abbiamo meno parti o più parti avremo più o meno patologia, cioè se siamo in un ospedale con molti parti, cosa vuol dire questo? Gli operatori probabilmente vedranno più frequentemente patologia e quindi saranno più esperti nel trattare degli eventi molto rari. In generale adesso il Ministero ha fatto una politica per cui tutti gli ospedali con meno di 500 parti sono stati chiusi o sono rimasti aperti solo quelli in sedi geografiche molto complicate da raggiungere, e quindi però anche per queste sedi sono previsti, si sta lavorando molto sul fatto che gli operatori di sedi con pochi parti abbiano una formazione continua nel corso dell'anno presso altre strutture si sta lavorando sul fatto di arrivare a questo. Ecco, è una cosa che su cui per esempio in Lombardia stiamo programmando per quelle regioni più localizzate in montagna, nelle zone più difficilmente raggiungibili, dove effettivamente è importante mantenere il punto nascita, però ci deve essere a questo punto una formazione adeguata degli operatori. Certo. E questo è il motivo principale per cui un ospedale con pochi parti ha più rischi, perché se un evento si verifica una volta su 1000 e i parti sono 500, quell'evento si verificherà ogni 2 anni in quella struttura. Quindi la formazione non può essere basata solo sul fatto di vedere i casi, deve essere anche una formazione fatta in modo attivo. Professoressa Cetine, fra un minuto, purtroppo per noi dobbiamo salutarla, ma lei prima, quando l'ho introdotta, l'ho presentata anche come membro del panel per la preparazione delle linee guida su emorragia postpartum coordinate dall'Istituto Superiore di Sanità. A chi serviranno queste linee guida? Ci può dare un'anticipazione sul lavoro che state facendo? Sì, ovviamente ogni ospedale, ogni struttura ha già i propri protocolli, non è che non si lavora già con dei protocolli, però le linee guida serviranno per uniformare in modo uguale, almeno con un protocollo di partenza, che poi chiaramente ci sono situazioni specifiche in cui può essere magari modificato, però uniformare il lavoro di tutte le sale parto di tutta Italia nel momento in cui si verifica uno di quegli eventi più acuti e più potenzialmente legati a un rischio di grave morbidità o morte anche materna, come è l'emorragia del postpartum. Quindi basandosi su linee guida di altri stati, su lavori preparati e studiati ad hoc per questa revisione, si fa un procedimento proprio molto standardizzato che è con degli esperti di valutare tutte queste evidenze e costruire delle linee guida che sono supportate, certo, dall'evidenza. Ce lo faccia, sì, questi casi, e non ne vorremmo mai più parlare, naturalmente. Ci faccia sapere quando siete pronti, professoressa Cettini. Noi intanto la ringraziamo per aver accettato di commentare con noi questi fatti e questi temi così delicati. Grazie molte, buon anno, a presto. Buon anno, arrivederci. C'è il giornale radio adesso, ma noi torniamo subito dopo. Cuore e denari. Eccoci qua in queste giornate che sono ancora un po' delle mezze feste, non si perde tempo, ritorniamo subito in onda. Il tema di denari di oggi. Con la legge di stabilità di quest'anno, varata da pochissimo, come sapete, perché è stato un tema controverso e discusso e commentato da tutti, è stato innalzato a 3.000 euro il limite di contanti trasferibili fra soggetti diversi. La tanto nuova contestata soglia di utilizzo dei contanti era già stata oggetto di un intervento da parte del governo Monti, come ricorderete, che l'aveva abbassata a 1.000 euro. Adesso c'è questa nuova modifica da parte del governo, appunto, Renzi. Ma rumori politici a parte e commenti che a volte vogliono anche proprio così unilateralmente strumentalizzare le questioni, c'è invece la soddisfazione degli operatori commerciali che, come noto, non sempre, e per tante ragioni, e a volte hanno anche ragione, non sempre appunto vedono di buon occhio l'obbligo di far pagare per certi importi con la moneta elettronica o strumenti alternativi al contante, che come noto non è che poi siano tantissimi, c'è la carta di credito, c'è il bancomat, c'è l'assegno, c'è il bonifico, ma c'è anche molta soddisfazione anche per quei consumatori che invece proprio non digeriscono di tracciare i propri pagamenti, quindi sono ben contenti di pagare in contanti i loro acquisti, soprattutto per importi elevati. C'è comunque ancora un po' di confusione sulla materia e quindi ci sembrava utile fare una delle prime puntate dell'anno chiarendo i punti essenziali di questo intervento. Chiedendoci intanto, il 2016 sarà l'anno dell'esplosione del contante in circolazione, perché non è che questa sia proprio un'ottima notizia, ed è davvero una così buona notizia questa dell'aumento del limite a 3.000 euro appunto di contanti trasferibili fra soggetti diversi? Cosa cambia per tutte le operazioni finanziarie che caratterizzano la nostra quotidianità? Faremo un punto della situazione su tutti quelli che sono i pagamenti sui quali vige l'obbligo della tracciabilità. Quando e per che cosa? Allora, torna a farci da tutor nella materia il nostro amico Nicola Forte, consulente tributario e consulente anche fiscale per il Sole 24 Ore, esperto di temi fiscali per il Sole 24 Ore. Forte, buongiorno e buon anno soprattutto. Buongiorno. buongiorno, buon anno a lei Deborah, buongiorno e buon anno a tutti i nostri fedelissimi radioascoltatori. Esatto, molto fedeli, e infatti hanno già drizzato le antenne quando ho fatto l'anticipazione del tema nella prima parte della trasmissione. Per tutti quelli invece che si sono messi in ascolto ora, chiaramente ricordo le modalità per interagire con noi, che sono sempre le stesse. Potete chiamarci in diretta all'800 24 00 24 per tutti i vostri dubbi sull'argomento, quali trasferimenti di denaro un po' complessi dovete fare e non avete capito bene come sono disciplinati, su quali pagamenti avete ancora qualche dubbio. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666, noi leggiamo sia gli SMS che WhatsApp. Peraltro Gennaro è stato uno dei primi ascoltatori a scriverci e ci ha chiesto già: volevo chiedere in merito ai pagamenti elettronici, è possibile chiedere da parte degli esercenti una piccola commissione se paghiamo col bancomat? Perché lui ci racconta che domenica in zona Faenza, in un noto centro commerciale, compravo le sigarette col bancomat e mi hanno chiesto un euro in più. Subito un commento su questo, dottor Forte. Cominciamo l'anno così, già qualche commerciante ha modificato le proprie abitudini. È la preoccupazione principale di tutti gli operatori con riferimento alla tracciabilità, cioè che di fatto una serie di oneri possano gravare sul consumatore finale, perché oggi sappiamo per gli esercenti attività commerciali un problema è rappresentato dal costo delle commissioni, anche se posso già anticipare che nella legge di stabilità abbiamo già una misura che dovrebbe calmierare, ridurre queste commissioni, in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Dal 1 febbraio 2016 un decreto di attuazione dovrebbe recepire un regolamento comunitario proprio nell'ottica di riduzione delle commissioni. Esatto. Allora andiamo invece alla novità, poi novità relativa, perché è un tema con il quale veramente stiamo facendo un vero e proprio tormentone ai nostri ascoltatori, perché di novità su questo tema ce n'è una all'anno. Gli ultimi governi si sono divertiti più o meno, poi non so con quanto appunto divertimento, ad intervenire più volte su questo tema, a volte per scoraggiare l'evasione fiscale, in altri casi per incentivare i consumi. Di fatto adesso con la legge di stabilità del 2016 viene di nuovo elevato il limite previsto per l'utilizzo del denaro contante. Dai 999 euro che vigevano appunto fino a poco tempo fa, adesso si ritorna alla soglia di 3.000 euro. E ricordiamo anche Forte, con lei mi diverto sempre pure a fare un po' di riassunto delle puntate precedenti, quante volte sono intervenuti i governi del recente passato su questo tema. Devo dire francamente ne ho perso il conto, perché eravamo partiti da 12.500, poi eravamo scesi a 5.000, poi 2005, poi il limite è aumentato, poi è diminuito, ma non solo, il limite, come vedremo tra poco, non riguarda le medesime operazioni, abbiamo più limiti perché le norme hanno diverse finalità e quindi non solo devo fare i conti con questo valzer, con questo sale e scendi, oggi siamo finalmente a 3.000, ma come dicevo vedremo che il limite di 3.000 non è stato elevato in ogni caso. La modifica viene introdotta dalla legge di stabilità va a toccare la normativa già esistente di contrasto al riciclaggio, giusto Forte, per chi si volesse divertire con i riferimenti legislativi, certo, che cosa deve andare a guardare? L'articolo 49,1 decreto legislativo 231/2007, proprio la norma fondamentale per contrastare il riciclaggio, questa è la disposizione di riferimento. Certo. Allora, l'incremento, come lei precisava, della soglia non è generalizzato. Partiamo con l'esempio più banale. In questi giorni ci sono i saldi, dottor Forte, ammettendo di averne la disponibilità e di volersi potersi divertire un po'. Allora, se fino al 31 dicembre di quest'anno io volevo andare in un negozio e magari comprare della merce di importo, ammettiamo, di 1.500 euro, dovevo effettuare il pagamento attraverso uno strumento elettronico di pagamento, giusto? Perché non potevo pagare tutto in contanti questa cifra. Potevo oggi invece anche pagare in parte. Esattamente, però diciamo adesso proprio per mantenere le bocce ferme e raccontare la situazione più semplice. Oggi invece posso pagare tutto in contanti. Certo, fino a 2.999,99 euro posso andare a pagare assolutamente moneta sonante, non commetto alcuna violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Questo se pago, appunto, come dicevo, certo, in contanti. Dicevamo però che l'incremento della soglia non è generalizzato. Il vecchio importo è ancora in vigore dove, quando e perché? Allora, è in vigore per le emissioni di assegni bancari e circolari innanzitutto. Quindi torniamo all'esempio che lei appunto poc'anzi proponeva, Deborah. Se vado, mi reco presso un esercizio commerciale, i saldi, spendo ad esempio 1.200 euro e pago attraverso un assegno, questo assegno deve continuare a riportare ancora una volta la clausola di non trasferibilità. Per, diciamo, probabilmente non ce ne accorgiamo perché tutti i carnet che io chiedo ormai alla banca, le banche li rilasciano con questa dicitura già prestampata. Ecco, però questa è una precisazione assolutamente importante, quindi per assegni bancari e circolari il limite è rimasto assolutamente immutato. Poi abbiamo altre ipotesi particolari che non hanno determinato questo incremento del limite, probabilmente ne parleremo più avanti, così i money transfer, no? Che sono quei servizi, quei circuiti, sì, per effettuare trasferimento di denaro all'estero. Spesso questi circuiti sono diciamo utilizzati da cittadini stranieri o ormai anche cittadini italiani immigrati che trasferiscono alle proprie famiglie denaro appunto guadagnato in Italia, e qui il limite è rimasto quello vecchio proprio perché questi circuiti spesso vengono utilizzati con finalità non proprio lecite, e quindi con un ultimo intervento il limite è rimasto assolutamente invariato, 1.000 euro. Senta, tornando appunto alla questione dell'emissione degli assegni bancari e circolari che quando sono superiori ai 1.000 euro devono continuare a riportare la clausola di non trasferibilità, ma ci spiega dal punto di vista tecnico perché è importante che questa clausola, che cosa indica la non trasferibilità? Semplicemente che il soggetto che è il beneficiario dell'assegno lo può, solo quel soggetto ed esclusivamente quel soggetto, incassare, quindi quel soggetto che è il prenditore dell'assegno materialmente andrà in banca, lo verserà, e quindi sotto questo profilo quel movimento viene perfettamente tracciato. Nel momento in cui invece l'assegno potesse circolare liberamente, è a tutti gli effetti un mezzo di pagamento, quindi è come se fosse denaro che circola, si perde contezza, si perde la tracciabilità di tutti i soggetti che di mano in mano hanno materialmente consegnato l'assegno al secondo o terzo soggetto, certo, e così via. Senta, dottor Forta, c'è un'altra questione perché vedo che la stanno sollevando, poi come sempre capita quando affrontiamo questi argomenti, ovviamente ci sono mille situazioni differenti sul territorio e ogni ascoltatore vuole avere la risposta al caso suo, ma prendendo a spunto quello che ci racconta un ascoltatore su una situazione che è capitata a lui, che era questa, è andato in banca prima di questa novità per chiedere, per fare un prelievo di 3.000 euro in contanti, e gli hanno detto che erano obbligati a segnalare all'Agenzia delle Entrate questa richiesta. Lui si lamenta per la questione della privacy, noi in realtà abbiamo raccontato molto spesso tutta la questione dello spesometro e del redditometro, quindi quando e in quali occasioni appunto gli intermediari finanziari sono obbligati per determinati importi a segnalare queste operazioni appunto all'Agenzia delle Entrate, ma ammettendo di dover fare un acquisto banale in negozio, allora oggi diventa improvvisamente ricca, dottor Forte, mi posso permettere una borsa di Gucci da 4.000 euro, voglio andare a comprarmela. Quel negozio, io faccio l'operazione, la pago con la carta di credito, ma quel negozio è obbligato a segnalare un'operazione di questo tipo a qualcuno? Ma allora, quel negozio ha in generale un obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate il cosiddetto elenco clienti e fornitori, più comunemente noto come spesometro. Tutti gli importi superiori ai 3.000 euro devono essere comunicati. Però in questo caso appunto il pagamento è effettuato tramite uno strumento tracciabile, quindi con carta di credito, mi sembra fosse questo l'esempio, sì, e se fosse così appunto il movimento è comunque tracciato, quindi devono essere tranquilli entrambi i soggetti, sia il soggetto che effettua il pagamento rispetta pienamente le disposizioni in materia di antiriciclaggio, così come colui che riceve la somma. È chiaro che appunto essendo un movimento che è tracciato tramite carta di credito, l'Agenzia delle Entrate sarà appunto a conoscenza di questo movimento. Ecco, questo è un problema. Questo non significa che l'Agenzia delle Entrate fa partire chissà quali controlli, no, su chi fa delle spese per conto suo, per le sue proprie, per i suoi propri gusti, per la volontà di spendere, assolutamente. È solamente un trasferimento di informazioni per avere una banca dati completa sulle operazioni, appunto, magari finanziariamente particolarmente rilevanti, dottor Forte. Ma questo non significa che qualcuno ci verrà a contestare il fatto che ci possiamo permettere di comprarci una borsa, certo, da Gucci, cosa che io augurerei a tutte le donne all'ascolto, peraltro. Sì, l'Agenzia delle Entrate, ecco, ha ampiamente chiarito poi che il cosiddetto redditometro, che dovrebbe misurare la capacità di spesa, cioè se io spendo molto di più di quanto incasso, è uno strumento, ecco, che sarà applicato nei confronti di questi soggetti laddove questo divario tra le entrate, esatto, e le spese fosse un divario molto consistente, quindi del tutto immotivato. Peraltro, dopo tante puntate che facevamo 3 o 4 anni fa, dottor Forte, con lei sul tema del redditometro, adesso sembra quasi un tema scomparso dalle pagine dei giornali. Sì, va più di moda. Sì, dopo che il garante della privacy è intervenuto a più riprese, sembra che in qualche modo la preoccupazione sia in effetti venuto a meno, ma in realtà non è cambiato molto, quindi in realtà probabilmente è solo un profilo psicologico, una preoccupazione, ma nulla di che. Allora, intanto non le dico quanti messaggi ci stanno arrivando, io adesso veramente, come dice Nicoletta, darò lettura a quanti più potrò, faremo proprio una batteria, daremo spazio ad una batteria di ascoltatori che ci scrivono e che ci chiamano, anzi comincerei proprio con gli amici che ci chiamano all'800240024, sentiamo un po' come la pensano su questo argomento e vedo che i commenti sono sempre un po' più o meno gli stessi. Comincerei con Aldo da Padova, che si è messo in collegamento per primo. Aldo, benvenuto. Aldo sì? Ha deciso. Ecco, ci sente? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono un esercente o ristorante e di conseguenza le carte di credito sono 30 anni che le accettiamo perché, ecco, abbiamo una spesa, diciamo, al ristorante va bene. Però io dico una cosa, pagare il caffè con la carta di credito mi sembra che sia una cosa non ancora la nostra. Ne abbiamo parlato tanto, Aldo, ma guardi, no, più che altro immagini un bar del centro di una città o anche e la coda che si forma a pagare, esatto, il business bravissima. Che si perde, era proprio il punto che abbiamo affrontato, sì, in una puntata di dicembre su questo stesso argomento, si lamentavano i gestori dei bar proprio di questo, Aldo. Il ristorante sì, si fa e via. Però, se si desse un po' più di spazio, se si incentivassero per esempio le carte, quello che fanno fare il pagamento velocemente, solo con una vettura veloce. Sì, non siamo ancora strutturati per questo. Esatto, tipo di e infatti vuole una cultura abbiamo tutta l'infrastruttura proprio assolutamente arretrata. Perché ed è poi un'altra cosa volevo dire, ormai abbiamo dotato di carte di credito, che io chiamo carte di debito, non carte di credito, perché ti crea un debito alla fine del mese. E dal diciottenne al novantenne, io credo che questa non sia una cosa positiva, perché la gente con la plastic money, come la chiamano gli americani o gli inglesi, spende senza accorgersi di spendere. E allora questo crea un problema. A mio figlio, per esempio, ho tagliato il bancomat, perché il bancomat andava allo sportellino, prelevava 50, 30, ma 20, Aldo 30. Mi permetta, per me questo è un problema educativo. Perché no, le posso, non è un problema educativo, è un problema che bisogna a un certo momento avere la cultura. Noi ne abbiamo ancora la appunto. Cultura. Appunto, allora è un problema educativo, vede che siamo d'accordo. Benissimo il contante a 3.000 euro, benissimo tutto, perché il commercio va incentivato, la gente deve spendere quello che crede di spendere. Se uno ha la possibilità di spendere 3.000 euro per una borsa o 10.000 euro per un pranzo, che se lo può permettere, lo può permettere. Però diciamo che a un certo momento uno deve fare i conti con le proprie tasche. E certamente, Aldo, allora io le dico che se tu sai, spendi senza accorgersi. Guardi, Aldo, non sono per niente d'accordo. Questa è una battaglia che io farò fino allo sfinimento dai microfoni di Radio 24, perché se io ho e so, visto che l'estratto conto mi arriva, ho 1.000 euro sul mio conto corrente e spendo 50 con la carta di credito, avere un foglietto e mettermelo da parte in cui segno tutte le spese che faccio in un mese e faccio un bilancio a fine mese, non vedo che cosa ci sia di tanto tanto difficile da fare. Quindi questa scusa del non utilizzare le carte in Italia perché si perde il controllo delle spese che si fanno, per me è una scusa che nel 2016 non regge più. Per cui, Aldo, il tema centrale è quello che lei indicava prima quando mi ha detto che ha tagliato il bancomat a suo figlio, un problema educativo, ma questo è il mio pensiero personale. Poi in molti la pensano anche come lei, evidentemente questo scontro andrà avanti ancora per un po' di tempo, fino a quando non cambieranno un po' di cose. Però è sempre un confronto molto appassionante. Nicola Forte, lei da che parte sta? Assolutamente sono dalla parte dell'incentivazione all'uso della moneta elettronica. Giro con pochissimo contante nel portafoglio, ma è anche una questione di sicurezza, perché sicuramente le carte di credito si possono bloccare immediatamente, mentre il contante a me è irrimediabilmente perso. E poi sono d'accordo anche sul fatto che è un problema di tipo educativo, che poi non è legato solo all'utilizzo della moneta elettronica. Ognuno di noi dovrebbe avere contezza di quanto spende, sia che la spesa venga effettuata con carta di credito, bancomat o contante. Se poi proprio uno concettualmente, mentalmente non ce la fa a gestire la carta elettronica perché teme di indebitarsi troppo, allora questo è un altro problema e non la usa. Detto questo, sul fatto di monitorare, se tu fai 3 spese col banco ma te ne fai 3 con la carta, è mai possibile che non riesci a tenerti il conto delle spese che fai e sottrarle dal tuo importo, dalla tua giacenza media sul conto corrente? A me sembra semplice. Detto questo, rispetto tutti coloro che non hanno la mia stessa elasticità mentale, che magari poi è rigidità mentale per altre cose, per cui, per carità, non è... questo è un mio pensiero. Detto questo, prendiamo atto anche di chi invece, appunto, proprio su questa materia fa così difficoltà ad avere confidenza. Allora, io sentirei anche Elvio da Macerata, per poi andare alla borsa fra 2 minuti e poi continuare a tutte le novità legate ai trasferimenti di denaro fra privati e questi nuovi limiti, appunto, per l'utilizzo del denaro contante che sono stati introdotti dalla legge di stabilità. E Elvio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Sì. Senta, io volevo intervenire a proposito del contante, che adesso è stato aumentato. Ma secondo me il contante, uno, se ce l'ha i soldi, se li deve spendere liberamente come vuole. Ma perché adesso non è possibile, Elvio? Lei non ha la possibilità. Se io voglio comprare 5.000, 10.000 euro, spendermeli tutti di una volta, devo giustificare come ce li ho, come non ce li ho. Ma cosa vuole lo Stato? Che devo giustificare cosa? Elvio, vabbè, qui dobbiamo riazzerare un po' il dibattito. Nicola Forte, e qua ritorniamo allora ai vecchi temi del redditometro, dello spesometro. Molti italiani proprio quello che fanno col proprio denaro non lo vogliono giustificare in alcuna maniera. No, ma qui non si tratta di giustificare. Se io trasferisco una somma di denaro contante superando il limite di 2.999, violo una disposizione di legge. Quindi il problema di dover giustificare al fisco è un problema che si pone dopo, in seconda battuta, è meramente eventuale. Probabilmente se io spendo in contanti 5.000 euro non devo neppure giustificare al fisco nel momento in cui ne guadagno 100.000. Se ne guadagno 100.000 e ne spendo 5.000 in contanti, il fisco non mi chiederà nessuna notizia, perché ho una chiara possibilità di spesa, ma sto violando una disposizione o una legge dello Stato, giusta o non giusta, iniqua, corretta, che mi impone in questo caso di pagare attraverso uno strumento diverso. Allora, intanto ci fermiamo, andiamo a raccontare un po' che cosa succede in borsa. Non vi dico quanti messaggi stanno arrivando adesso. Naturalmente subito c'è chi invoca Oscar Giannino, che magari mi sta anche ascoltando, ce l'ho qua alle mie spalle, e verrà a contestare le mie idee su questo argomento. Io spero di no, insomma il confronto su tutti i temi è sempre utile. Detto questo, quello che a me interessava stamattina non è andare a commentare le abitudini di spesa degli italiani, l'utilizzo della carta di credito, i passi avanti che possiamo fare dal punto di vista informativo ed educativo su certi argomenti. Mi interessa capire che cosa cambia con la legge di stabilità e i nuovi limiti che sono più vantaggiosi per tutti, a quanto pare, insomma, hanno più consenso da parte di tutti, i nuovi limiti per l'utilizzo del denaro contante. Ci sono molte domande da parte vostra, peraltro c'è anche chi ci racconta che fa un po' di fatica a pagare in banca l'F24 se le imposte che deve versare sono di importo superiore ai 1.000 euro. Adesso leggerò anche questi casi. In tutto questo facciamo una bella cosa, andiamo a vedere in borsa cosa succede oggi. Cuore e denari. Questa è Money dei Pink Floyd, parliamo di soldi e parliamo anche delle novità. Tra le tante che arrivano con la legge di stabilità, viene modificata anche la normativa antiriciclaggio nella parte in cui questa aveva stabilito in Italia il limite dell'uso del contante sotto i 1.000 euro, 999,99. A partire dal 6 dicembre del 2011 era stato il governo Monti a ricambiare di nuovo questa soglia. E il 2016 ci fa rifare un altro passo con la legge di stabilità. Adesso c'è il limite per l'utilizzo dei contanti che viene riaumentato a 3.000 euro. Allora, cosa cambia per le abitudini di tutti? Cosa cambia per i prelievi, per i versamenti in banca, per i trasferimenti di denaro, per i pagamenti di ogni genere? 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Io volevo degli interventi questa mattina che ci chiedessero dei chiarimenti su questa novità, se dovete fare delle operazioni finanziarie di vario tipo. Ovviamente ancora una volta il dibattito si è spostato tutto sulla guerra fra l'utilizzo del contante, che tutti gli italiani preferiscono ancora, e l'utilizzo invece della moneta elettronica di pagamento, un tema che probabilmente in Italia non ci scrolleremo di dosso ancora per lungo periodo. Detto questo, con noi stamattina c'è Nicola Forte, consulente tributario, esperto per il Sole 24 Ore su questi argomenti. Abbiamo parlato nella prima parte, dottor Forte, di un ipotetico acquisto di un valore inferiore o superiore appunto ai 3.000 euro, quindi abbiamo parlato del caso naturalmente più semplice che si può verificare nei prossimi giorni. Abbiamo parlato anche dell'emissione di assegni bancari o circolari per cui è ancora in vigore il vecchio importo. Se questi sono di importo superiore ai 1.000 euro dovranno continuare a riportare la clausola di trasferibilità. Andiamo adesso invece al tema libretti di deposito bancario e postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera. Andiamo ad altre casistiche, insomma, questa nuova soglia che cosa implica? Allora, anche qui la soglia per il trasferimento di libretti al portatore è elevata a 3.000 euro, però bisogna fare una considerazione che la legge di stabilità ha modificato solo la prima parte dell'articolo 49, prima facciamo riferimento all'articolo 49, comma 1. La normativa di contrasto al riciclaggio. Sì. Esatto, lo stesso articolo 49 però riporta più disposizioni, c'è un altro comma in cui prevede espressamente, quel limite non è stato modificato, che il saldo dei libretti al portatore non può essere superiore a 999,99 euro, quindi questo limite non è stato modificato. Allora, in concreto, cosa può verificarsi? Che io trasferisco appunto dei libretti al portatore il cui saldo non può superare comunque il limite di 999,99, però posso trasferire correttamente due o tre libretti, purché l'operazione complessivamente non superi il nuovo limite, che a questo punto non è più 999 ma 2.999,99. Quindi devo distinguere sostanzialmente il saldo del singolo libretto rispetto al trasferimento dei libretti, che complessivamente non può superare il limite così come è stato elevato. Che cosa significa il trasferimento dei singoli libretti, dottor Forte? Cioè, quando trasferiamo un libretto? È proprio al portatore, nel senso che materialmente lo consegno a un altro soggetto. È come se stessi di fatto trasferendo denaro contante, dopodiché il prenditore del libretto potrà recarsi presso un istituto di credito e potrà anche monetizzare la somma contenuta nel libretto, proprio perché al portatore circola, tra virgolette, senza formalità, in effetti è come se stessi trasferendo denaro contante. Questo è il motivo. Stessa ragione per i titoli al portatore, il cosiddetto certificato di deposito al portatore. Circola materialmente tramite consegna, l'ultimo prenditore può recarsi presso la propria banca per monetizzarlo, per incassarlo, e a tutti gli effetti è considerato denaro contante. 800 24 00 24, se alcuni aspetti di queste novità non vi sono chiari chiamateci al numero verde. Nicola Forte è a nostra e vostra disposizione. Senta, dottor Forte, se non mi ricordo male, queste nuove misure volevano intervenire anche nelle abitudini, nei pagamenti dei canoni d'affitto, perché naturalmente molto spesso si viaggia anche su cifre superiori, no? Allora, per chi deve pagare un canone d'affitto e magari non fa un'operazione con bonifico bancario per importi magari piccoli, cambia qualcosa? Insomma, dobbiamo tracciare anche il pagamento del canone d'affitto proprio a fini anche chiaramente di obbligare alla dichiarazione dei canoni percepiti i padroni di casa, insomma, perché sappiamo bene anche che c'è tanta confusione su questo argomento. Qua cambia qualcosa? Ma allora, in primo luogo devo ricordare che devo sempre rispettare la famosa soglia di 999 euro, quindi se io pago in contanti posso pagare in contanti fino a quell'importo e non oltre. La legge di stabilità però è intervenuta, perché prima dell'ultima modifica, quindi dell'approvazione del testo definitivo, un'altra disposizione imponeva di tracciare i pagamenti in contanti dei canoni di locazione delle abitazioni. Questa norma non è apparsa chiara sin dal primo momento, si discuteva della portata e quindi si diceva forse se pago un canone di locazione di un'abitazione anche se inferiore ai 1000 euro ho obbligo di tracciare, ma in realtà il Ministero del Tesoro, il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanze, ha chiarito che in realtà prima dell'ultimo intervento della legge di stabilità, i pagamenti anche inferiori a 1000 euro, non c'era alcun obbligo di utilizzare uno strumento in grado di assicurare la tracciabilità, ma dovevo assicurare la tracciabilità del contante, cioè il soggetto che riceveva la somma doveva attestare di aver ricevuto quella somma in contante, anche tramite una semplice ricevuta. Questa norma, probabilmente poco utile, è stata cancellata, perché se io pago in contanti ho interesse a che il soggetto che riceve la somma mi rilasci una ricevuta per dimostrare l'avvenuto pagamento, e quindi questa norma è stata cancellata dalla legge di stabilità. Ci vuole ribadire un po' le regole che disciplinano i prelievi dal conto corrente bancario, ammettendo che mi serva per qualunque ragione di avere in tasca una somma superiore ai 3.000 euro, dottor Forte, e io ho la giacenza sufficiente sul mio conto corrente e posso andare a fare questo prelievo. Allora, che tipo di adempimenti, a che tipo di adempimenti devo sottostare davanti al personale bancario a cui chiedo di fare un'operazione di questo tipo? Appunto, devo firmare della modulistica particolare, devo dare delle giustificazioni in particolare? No, iniziamo subito a chiarire, questo era un problema che soprattutto è sorto quando il limite si era abbassato a 1000 euro, adesso a maggior ragione non si pone. E all'inizio addirittura le banche affermavano, precisavano ai correntisti che era vietato il prelievo superiore ai 1000 euro, oggi sarebbe 3000 euro, ma in realtà non è così, perché fin quando prelevo non sto trasferendo denaro a favore di un soggetto diverso. Allora facciamo i due casi, cominciamo appunto con un prelievo diretto per nostra necessità. Perfetto, vado allo sportello, chiedo di prelevare oggi 3200 euro, lo posso tranquillamente fare, non sto violando alcuna disposizione, probabilmente, anzi, visto che il prelievo avverrà nella banca, ovviamente dove sono correntista la banca mi avrà già identificato, avrà già una scheda, avrà il mio documento, avrà assolto tutti gli obblighi di antiriciclaggio che impone una verifica della clientela, quindi in realtà non devo fornire giustificazioni. Devo però fare attenzione, perché se i prelievi in contante sono continui di importi eventualmente crescenti, la banca potrebbe eventualmente effettuare presso la Banca d'Italia ad un apposito organismo la segnalazione di operazione sospetta. Non è un obbligo, la banca deve fare una valutazione. Se ha il sospetto che tutti questi prelievi siano finalizzati a riciclare denaro, può, quindi è un atto discrezionale, comunicare appunto a un'apposita autorità di vigilanza presso la banca. Quale può essere, dottor Forte, un'operazione sospetta? Non lo so, detto che io auguro a tutti di avere importi sul conto corrente. Allora intanto teneteli l'importo inferiore ai 100.000 euro, perché con le nuove regole del bail-in non si sa mai che cosa potrà succedere in Italia. Chiusa questa parentesi, che non è certo la, come dire, la considerazione di un gufo, ma è solamente un atto di realismo. Questi nuovi limiti ci sono. Se una banca fallisce per tutto ciò che è superiore ai 100.000 euro, la banca può anche dirci, come correntisti, non vi ridò niente, tutto il resto, quello che è al di sotto, te lo ridò. Detto questo, allora io ho 50.000 euro sul conto, se per 10 giorni consecutivi vado a prelevare 3.500 euro, la banca può insospettirsi che sto facendo, ecco, questo è il punto. Quindi ci sono delle operazioni clamorose da fare, non è che tutte le operazioni sono sospette. Degli indici, degli indicatori, e tra gli indicatori è i prelievi di importo rilevante effettuati continuamente con una certa frequenza. È ovvio che c'è sempre una valutazione discrezionale, ma i prelievi, ripeto, che si ripetono con una certa frequenza di importo ammontare rappresentano un indice. Quindi sotto questo profilo bisogna fare attenzione. Ecco, allora io sono partita con l'esempio banale del prelievo di denaro contante a mio uso e consumo, no? Se invece avessi bisogno di fare un'operazione, voglio trasferire sul conto di mio cugino 3.500 euro, dottor Forte, devo fare questa operazione, il bonifico mi salva da qualunque tipo di contestazione da parte di qualunque organizzazione, istituzione? Certamente è un movimento tracciato, rispetto alla norma, non sto trasferendo denaro contante perché sto operando attraverso un bonifico, il fatto che lo faccia attraverso bonifico, anche il soggetto ricevente, che avrà ovviamente una maggiore capacità di spesa perché riceve una somma di denaro, qualora il fisco, eventualità remota vista la cifra modesta, dovesse chiedere informazioni, colui che riceve la somma potrà chiaramente dimostrare che ha ricevuto la somma per effetto di un prestito, da un parente o altro. Quindi assolutamente stiamo correttamente operando. Se invece io trovo un portafoglio, ci sono 10.000 euro dentro, non le consegno alle forze dell'ordine come qualunque cittadino civile farebbe, ma prendo questi soldi e me li vado a depositare sul mio conto corrente, dottor Forte. Allora la banca può chiedermi ragioni del fatto che voglio depositare una cifra così importante di importo superiore ai 3.000 euro? Anche qui vale lo stesso discorso. Nel momento in cui io deposito soldi che sono miei, perché in realtà non le ho acquisiti tramite un trasferimento, qui l'ipotesi è un po' fantasiosa, ma in realtà le ho trovati, quindi non c'è nessuno che mi abbia trasferito, non è un mio congiunto, un parente che mi ha dato la somma, ma l'ho trovata in un portafoglio, quindi manca il trasferimento. Ma se le verso su un conto corrente, il conto corrente è mio. Ma qui vale lo stesso discorso: se io effettuo versamenti in contante con una certa frequenza di importi elevati, l'operazione non è di per sé legittima. Ma una tantum, dice lei, non richiede nessuna giustificazione da parte di chi l'operazione la fa. Certamente, ecco, sì, assolutamente è così. Ci fermiamo, c'è il traffico di nuovo e poi subito con gli ascoltatori. Rosario da Catania, Daniela da Roma, Manuele da Pisa, a tra poco. Cuore e denari. Siano i soldi i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Vabbè, questi soldi, croce e delizia di noi tutti, sempre di questi parliamo, ci fanno perdere il sonno qualche volta, perché insomma negli ultimi anni di crisi ce ne sono stati un po' pochi nelle tasche degli italiani. Allora si cerca in qualche modo di intervenire per smuovere un pochino anche un po' di movimento di denaro in Italia, anche attraverso queste iniziative come quella di cui parliamo questa mattina, la nuova modifica alla normativa antiriciclaggio che aumenta il limite dell'uso del contante un euro sotto i 3.000 euro. 800 24 00 24 per tutte le domande tecniche anche da parte vostra, perché non si tratta solamente qua di andare a fare shopping e di avere un po' più di contante da spendere, ma ci sono tante implicazioni per i prelievi, versamenti in banca, per i trasferimenti di denaro, per tra individui nel mondo delle aziende, appunto fra operatori commerciali e quant'altro, per cui tante implicazioni, come vi dicevo. Allora, le domande degli ascoltatori negli ultimi 10 minuti che ci rimangono. Rosario da Catania, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, ci dica. Senta, io in poche parole, questo mese ho ricevuto un assegno bancario che includeva, diciamo, la mia liquidazione, tredicesima e lo stipendio dell'ultimo mese di lavoro, che è di un ammontare di 4.900 euro circa. Sì. E io sono andato alla banca emittente dell'assegno e mi hanno fatto problemi a cambiare l'assegno. Ah, cioè la banca che l'ha emesso addirittura non glielo vuole cambiare. Cioè, non è la sede diretta. Sì. Però ha ragione Rosario, ma nel 2016 io ancora quando sento queste storie è veramente inaccettabile. Detto questo, Rosario, non le conviene provare ad andare a versarlo sulla sua banca? Le fanno problemi anche lì? Io non ho un conto corrente, assolutamente. E non avrei intenzione di farlo. Rosario, vorrei allora capire, sì, se, perché non glielo cambiano? Vorrei capire se è lecito. Grazie Rosario. Dottor Forte. Sì, diciamo che il problema secondo me è di adeguata verifica della clientela, di identificazione ai fini dell'antiriciclaggio, perché l'assegno è correttamente non trasferibile, emesso immagino nei confronti del nostro, certo, è una liquidazione, certo, quindi una prestazione professionale. Perfetto, quindi sotto questo profilo la normativa viene assolutamente rispettata. E se la banca cambia, effettua il cambio, in realtà il movimento è tracciato. Il problema di fondo è che chiaramente le banche vedono con particolare sospetto queste operazioni, proprio perché il soggetto che cambia non è conosciuto, non è noto, e quindi hanno proprio per il fatto che magari non ha un altro conto corrente, quindi magari anche tra intermediari non riescono a passarsi questa informazione. Dottor Forte, può essere anche per questo? Ma no, perché l'adeguata verifica della clientela deve avvenire appunto dal soggetto che materialmente fa il cambio. Io ricordo una volta, per un'esperienza diretta, ero nella località estiva, dovevo effettuare un bonifico per lavori di ristrutturazione, ma era una somma assolutamente modesta, 300 euro presso una banca diversa rispetto a quella dove ero correntista, un altro istituto di credito, oltre le commissioni molto elevate, 30 minuti per adeguata verifica clientela, copia del documento, sottoscrizione dei modelli. Quindi sì, detto questo però, Rosario, mi pare che ci abbia rappresentato un caso che non è che potrebbe essere così raro poi in Italia, che ancora il sistema bancario contesti, io poi magari che ci metta un po' di tempo a fare le dovute verifiche sulla persona che chiede di cambiare un assegno, è anche rilevante, ma che gli dica addirittura di no, perché comunque la banca è diversa rispetto a quella che lo ha emesso, anzi lo sportello, neanche la banca da quello che capisco, la filiale. E qua fino a che punto può contestare anche di cambiargli questo assegno? Secondo me il assegno lo può cambiare sottostando, ripeto, a tutta una serie di oneri che la banca comunque deve adempiere per effetto del decreto legislativo. Al momento gli hanno detto di no, per cui che ritorni a bomba, Rosario, magari ci faccia un po' sapere come finisce questa faccenda. Daniela da Roma, benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, a me è capitato questo, che di solito io ho un mutuo contestato con mio marito semestrale e abbiamo una rata dell'importo di circa 9.000 euro. È successo che di solito l'addebito sul conto corrente della banca di riferimento, certo, che sarebbe il Monte dei Paschi di Siena. E invece questo mese, entro il 31/12, dovevo pagare sul conto corrente del Monte dei Paschi, ahimè non avevo più liquidità, non aveva la giacenza, abbiamo pagato le nostre belle tasse, certo. E quindi ho anche un conto corrente al conto corrente postale, dove ho una carta banco posta, allora dove avevo liquidità derivante da risparmi, e io ho una società e quindi prelevo gli utili durante l'anno. anno. Si fa un po' il gioco delle tre carte, no? Se non basta da una parte, una volta brava. Daniela si allora, va dalla e guardi. Sono presentata lì allo sportello, praticamente non mi hanno permesso l'addebito, era un MAV postale. Non mi hanno permesso l'addebito nel conto corrente, ma ho dovuto pagare allo sportello con questa carta di credito, Banco Posta, dicendomi che dovevo predisporre precedentemente un RID e quant'altro, e al che al momento del pagamento si è aperto tutto un questionario, l'impiegato mi ha iniziato a fare domande su riempendo questo questionario online del tipo la mia professione, i dati fiscali. Come se non l'avessero mai conosciuta prima, visto invece appunto, lei aveva già dei rapporti. Conto corrente a tutti gli effetti, poi la provenienza dei fondi con cui pagavo l'importo della rata, e io alla domanda ho detto ma perché tutto questo? Mi ha specificato che sopra i 5.000 euro sono obbligati a, si innesca automaticamente questa procedura, quindi hanno completato questo e io non sapevo, mi sono trovata in difficoltà perché certo. Ci sono varie opzioni, pagamento immobili, fondi da... Per sì, sì, certo, immobili, non aveva tutte le informazioni per completare. Daniela, quindi... è riuscita a pagare la rata del suo mutuo? Non mi dica che è rimasta indietro pure con quella, perché poi la si aprono altri. Ecco, per fortuna. Poi mi hanno consegnato la copia di questo questionario che ho firmato. Ecco, vorrei capire perché mi hanno detto che sopra i 5.000 euro sistematicamente si attiva questa procedura. Dottor Forte, questa soglia dei 5.000 c'è nuova stamattina? No, non è nuova. Questa soglia dei 5.000, nel senso. Probabilmente sarà un limite individuato ma non previsto dalla legge in funzione magari dall'intermediario Poste avrà detto noi per passaggi, per trasferimenti di importo superiore chiediamo di compilare questa documentazione di controllo. Anche qui per il discorso dell'antiriciclaggio, per il discorso dell'adeguata verifica, però una precisazione importante, se io vado a effettuare materialmente l'operazione presso un soggetto che già mi ha identificato, ha il documento, ha una scheda, perché quando si parla di adeguata verifica della clientela, che cosa vuol dire? Vuol dire che la banca ogni tanto o altro intermediario deve rinnovare la verifica di questi dati. Non so se a qualcuno di noi ogni tanto capita, a me è capitato, la banca o chiama direttamente o invia un messaggio dove dice si deve presentare per l'adeguata verifica della clientela. È un'operazione pro forma, ma bisogna farsi vedere. Loro materialmente rinnovano tutta una serie di dati che sono contenuti in una scheda proprio perché lo impone la legge, e sotto questo profilo è un atto abbastanza semplice. Ecco, mettiamola così, che a Daniela questa operazione gli è stata fatta perché casualmente ha avuto bisogno di effettuare un'operazione un po' più complessa del solito, per cui hanno colto l'occasione invece che chiamarla magari in un altro momento di maggior tranquillità, spiegandole con calma questa necessità di aggiornare le informazioni su questo cliente. Esatto, assolutamente sì. Adesso l'importante è, ove ci fossero altre operazioni, che le stesse richieste non vengano ripetute, perché ormai la persona è nota, è conosciuta, è monitorata. Abbiamo appena effettuato l'intermediario Posti, appena effettuato la verifica di, appunto della clientela, dei dati della signora, e quindi le altre operazioni dovrebbero essere, auguriamocelo, più semplici. Allora, sentirei Emanuele da Pisa, poi stiamo andando verso la conclusione, lascerei stare, lo saluto con affetto, Cristian da Roma, che voleva chiederci se suo padre gli regala 3.000 euro e poi lui lì va a spendere, cosa succede ai fini del redditometro? Cristian, non le succede niente, se li goda, se ritiene che questo sia un regalo che lei si è meritato, per cui ai fini del redditometro nessuno le dice niente su 3.000 euro, quindi guardi, se li spenda come meglio crede. Sentirei Emanuele da Pisa velocemente, grazie. Sì, pronto, buongiorno. Veloce che stiamo chiudendo, Emanuele. Volevo conoscere solamente se la regola dei 3.000 euro vale anche per l'acquisto di un'auto usata. Io ho avuto necessità di acquistare un'autovettura di un importo di quasi 4.000 euro e il concessionario non mi ha permesso di pagarla in contanti. Io ricordavo invece che precedentemente per l'acquisto di autovetture e motoveicoli, dove tutto appunto era registrato presso la concessionaria, era possibile. Grazie Emanuele, forte. Vale assolutamente la regola, si tratta di un trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, si supera la soglia e diversamente si rischia una sanzione dall'1 al 40% che sia per chi paga sia per chi riceve la somma. Tra l'altro in tutta questa gran puntata noi per chi viene pizzicato non in regola non abbiamo detto che cosa gli potrebbe capitare, magari ce lo dica in 10 secondi Nicola Forte, insomma una la sanzione che potrebbe essere quella più dall'1 al 40% con dell'importo trasferito con un minimo di 3.000 euro. Se vengo pizzicato, appunto come abbiamo detto, c'è la possibilità di fruire di un meccanismo, si chiama oblazione, ammettendo la violazione con il pagamento di una somma ridotta, appunto posso limitare i danni, però attenzione ai trasferimenti di denaro. Ci ritorneremo Nicola Forte, buon anno intanto, grazie per essere stato con noi. Noi torniamo domani regolarmente in diretta, parleremo di saldi e di tanto altro ancora. A tutti, buona giornata.